non mi ricordo più, lo sentirai fra poco. Ossimoro anacronistico, stilisticamente improbabile. Esatto, fai conto così. Ecco, perfetto. Allora a questo punto siamo certi che la curiosità di tutti sarà salita alle stelle. Esatto. Con un acronimo che racchiude un nucleo così semanticamente assurdo. E poi vedo che ultimamente hai lo sguardo un po' perso nel vuoto dopo i miei interventi. Ma no, è il mio sguardo normale, dai. A glow on the ripples coming downstream. The yacht is a kingdom secret to me. I don't want anyone else to see. Down in the grass, watching ants from my knees. Up in the branches of the mulberry tree. I don't want anyone following me. Sundays we spend with our feet in the water, watching sunfish flash over the stones. Later at dinner, I sit like a soldier, hiding inside when I'm home. Out just beyond where their voices can reach, thrown from the house meant to catch up to me. But I'm drifting to sleep on a blanket of leaves, and all I can hear is the wind in the trees. Ah, che meraviglia! Questa era la voce di Jenny Owen Youngs e la canzone che è uscita la settimana scorsa si intitola Sunfish. Coxo spaziale. Coxo spaziale. E dunque cominciamo subito andando fuori porta. Fuori porta. Siamo, dove siamo? Siamo sulle rive del torrente Samoggia, a Tolè, in un posto fantastico che si chiama Oasi, che sta per opificio artistico silvestre e poi, per esagerare, dico sempre ideale. E siamo con Paolo Gualandi, grandissimo scultore, nonché ultimamente, non saprei dire, curatore di un progetto importante. Come si chiama questo progetto? Questo progetto è la collezione o raccolta d'arte degli artisti bolognesi e del territorio, diciamo, bolognese, sopra i 500 metri a livello del mare. Che cosa vuol dire questo? Che siamo in Appennino. L'Appennino è un territorio estremamente fragile che va, come dire, tutelato, va curato. Io posso curarlo con quello che conosco, cioè la materia, i temi artistici e gli stessi autori che ho conosciuto negli anni. Questo progetto serve per ricostruire una memoria che, metaforicamente dico sempre, si avvicina a quelle che sono le frane del nostro Appennino, che vanno puntate, vanno protette, vanno curate, e così la memoria di tutta l'arte che si è svolta nella seconda metà del Novecento a Bologna e dintorni si sta disperdendo. Per non disperderlo, ho pensato di raccogliere gli artisti, ma anche in relazione alle loro rapporti istituzionali e anche come, non solo artisti, ma anche didatti, che negi anni, dagli anni 50, 60, anche alla prima, fine del Novecento, anche certo. Prima, poi perché con Tomba anche prima, infatti. Abbiamo hanno costruito delle attività artistiche e culturali molto importanti, ma hanno anche seminato cultura artistica visiva importante, tant'è vero che possiamo fare degli esempi, se vogliamo, certo, non so, ci troviamo un Guidi, ci troviamo un Mandelli, che poi a sua volta ha avuto come assistente Bottarelli, a loro volta loro hanno avuto come allievo Mastronardi, e così via discorrendo. Così c'è questa rete di artisti che formano come una ragnatela. Ora siamo arrivati quest'anno, con le nuove acquisizioni che faremo, arriviamo a 99 opere corrispondenti a 99 artisti, ma sono, sembrano tanti, ma nella realtà culturale di questi anni sono ancora pochi. Una percentuale di quello che è successo nel territorio. Forse una metà di quello che è avvenuto. E chiaramente negli anni, anche per la cortesia e la generosità, ma anche e soprattutto lo spirito che ha potuto avvicinare gli artisti, gli amici artisti, che hanno collaborato con le loro donazioni, ma non solo delle loro opere come operazione individuale, ma anche con opere delle loro collezioni familiari, personali, proprio per arricchire e dare senso di questa memoria storica, che deve essere tutto sommato anche materia di studio, deve avere una sua profondità, scientificità. E dunque il 27 settembre cosa succede? Il 27 settembre ci sarà l'apertura, anche sempre sotto i nostri protocolli, certo, Covid, eccetera, eccetera, come al solito, di 27 nuovi autori, dove, diciamo, oltre ai maestri che vanno a completare dei nuclei, per esempio legati alla scenografia, alla pittura come De Vita, oppure legati all'incisione in senso stretto come Manaresi, allievo di Morandi. Oltre a questi apriamo quest'anno e arricchiamo l'indirizzo degli scenografi, quindi De Vita, che è un tramite tra la pittura e la scenografia, poi i giovani scenografi con Mario Bratella, con Manelli, Enrico Manelli, eccetera. Un'altra novità di quest'anno è aprire coi fumettisti. Per questo ho preso dei tre giovani fumettisti che poi il prossimo anno verranno arricchiti dai loro maestri, sempre della Bologna e dintorni, che abbiamo avuto una storia di fumettisti importantissima, certo, a livello internazionale. Tuttora continua a esserci. E per il prossimo anno già anticipo la street art, che è importantissima tra gli anni 80-90, che è venuto fuori una serie di personaggi estremamente importanti. Da anche ricordare che nell'84, esatto, la mostra che era stata organizzata, esatto, da Francesca Linovi, esatto, è successa per la prima volta a Bologna. A Bologna. Arte di frontiera. Esatto. Noi cerchiamo di recuperare alcuni artisti importanti di questa cosa, ma questo è il progetto del prossimo anno, che mi fa piacere anticipare, perché questa è una raccolta di studio tra gli addetti ai lavori, che vuole essere anche poi aperta a un pubblico più vasto dentro un territorio fragile, ed è una cosa riservata, cioè è quasi un museo da scoprire. È un museo nascosto da scoprire, esatto, come l'Appennino. In un posto meraviglioso, fra l'altro. Esatto. Descrivere. Infatti, vi devo assolutamente consigliare. E dunque, a che ora bisogna venire? Alle 11 di domenica, di domenica 27 mattina, settembre. Sì. Troverete naturalmente sempre su www.coxospaziale.blogspot.com il link con il punto preciso su dove andare a parcheggiare, perché non è facilissimo, sì, da trovare, esatto, ma veramente merita. Dimmi tu, no, posso dire alcune indicazioni? Per esempio, siccome la via per arrivare qua in realtà è la vecchia cavedania del mulino, quindi lì si può solo scendere a piedi, ma per scendere in macchina, anche se la strada in parte, in piccola parte, è bianca, è una strada con ghiaia, si può avere tutte le indicazioni utili se uno clicca su Google, mi raccomando, non su Google Map o cose del genere, direttamente su Google, Oasi Tolè. Oasi Tolè. Perché se no, altrimenti vi porta giù nella vecchia via, che è poi la via Mulino Balone 20, e che quindi non è praticabile. Ho capito. Quindi Oasi Tolè, riferimento è quello. Ci sono tutte le indicazioni stradali per arrivare. Fantastico, ringraziamo Paolo Gualandi e ci vediamo il 27 qua all'Oasi Tolè alle 11 di mattina. Bene. Su un mare tranquillo, la luce dell'alba dipinge di rosa quest'aria sospesa, bottiglie di vetro che piangono al vento, così abbandonate da mani indifferenti, le straio rovesciate attendono in silenzio un colpo un po' sgraziato che torni a dargli un senso, ritrova il suo respiro, il mare affaticato e l'eco della festa con la brezza se ne va. Ed io in qualche modo mi sento a mio agio, sprofondo in un quadro di malinconia. Pensavo che tutte mi avrebbero invidiata, avrebbero pensato, guardate quanto è amata. Quanto è amata. che scotta, che scotta, che scotta, che scotta, che scotta, ma per il momento non salterò giù. Oh, oh, no, non salterò giù. Coxo spaziale. Almeno che diciamo che è la 327esima puntata di Coxo Spaziale ed è registrata. Come sempre. Come se, no, non come sempre. Come spesso. Come spesso. Come sarà anche la settimana prossima. E quella dopo. No, quella dopo quella no. Dopo ancora. Anzi, ho un ospite in diretta, adesso devo capire se posso portarlo. Ah, uno scoop pazzesco. Eh? Cioè, apriamo la... No, perché veramente qua io dico bisogna tornare in presenza. Esatto. Ma infatti... Secondo me Radio Città Fujiko sta aspettando di capire cosa succede nelle scuole e poi una volta che ha capito si torna in presenza anche in radio. Allora è meglio che io taccia perché esatto. Su questo argomento è meglio tacere. Olá, eu sou a Edna, eu vivo no Brasil, na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Bom, a arte postal para mim é uma comunicação criativa. Ela promove encontros e discussões em temas variados e proporcionando uma produção livre. Ela é democrática em materiais, em participação, em suportes, em categorias e tipos de arte. A arte postal me traz surpresas boas. E é isso. Vida longa arte postal. Non sappiamo cosa dire. Ecco, invece quando non sappiamo cosa dire, ci ascoltiamo un pezzo. Questo è un gran pezzo. Si chiamano Siberian Meat Grinder. Me li ha segnalati il mitico DJ Paglione, che salutiamo caldamente e speriamo che torni su Facebook quanto prima. Ed eccoli qua, Walking Tall. Siberian Meat Grinder! Here we go! Coming back for you! Let's go! Deadfall! Walking through!

ringraziamo il mitico DJ Fede Rock, Federico Cortellazzo, che ci fa sentire un pezzo che con Coxo Spaziale non c'entra niente, ma su questo ormai siamo abituati ed effettivamente continuiamo pure nella programmazione di quella che potrebbe essere una delle puntate più bislacche nella storia di Coxo Spaziale. Questa è la mitica Tamara Bubble con Get Back to My Life, che è uscito Labor Day qualche tempo fa, prodotto a Los Angeles da Donnie Barron. Tamara Bubble, lo ricordiamo, è stata una delle prime che, quando io su Twitter ho detto se avete della musica bislacca mandatemela che la trasmetto su Coxo Spaziale, è stata una delle prime a rispondere con un sacco di pezzi, alcuni anche abbastanza belli. L'angolo della menzione. Sabato 19 settembre dalle 18 alle 6 di mattina, Trekking dell'anima, una maratona dal tramonto all'alba per vivere la città con stimoli nuovi, un percorso sul rischio e la fiducia, giocando e mettendoci in gioco per poi salutarsi con un buongiorno ed un caffè. Questo succede sia sabato 19 settembre che il sabato 3 ottobre nell'ambito del progetto Metro, ma sentiamo che cosa ci hanno detto a riguardo. Buongiorno a voi tutte e tutti, io sono Alessandro Tampieri e sono qui per parlarvi di Trekking dell'Anima. Raccolgo con piacere il testimone di Abitare lo Spazio che vi ha già presentato Giuditta De Concini. Insieme a lei, insieme a Sara Giordani, Anna Albertarelli, con il supporto dell'Associazione Culturale Giaia, dell'Associazione Culturale Samà e con il contributo del Comune di Bologna, abbiamo proposto Metro. Cos'è Metro? Un progetto di riflessioni, di pratiche, di interviste e ora, nello specifico, di percorsi per uscire dal lockdown e ripartire con una maggiore consapevolezza, che è questo un po' il senso di Trekking dell'Anima: attraversare il buio, affrontare la selva oscura e poi trovare una via d'uscita. Perché noi staremo insieme tutta la notte, dal tramonto all'alba, in un vero trekking urbano, che non sarà tanto impegnativo per la difficoltà del tragitto, però di sicuro sarà una sfida, una prova di resistenza, anche una prova di fiducia, sia verso i nostri compagni di viaggio, ma sia anche con noi stessi. Insieme esploreremo la città giocando, mettendoci in gioco, secondo lo spirito delle Playable City. Riscopriremo i luoghi quotidiani con stimoli nuovi, ma soprattutto incontreremo persone con storie da raccontare, persone che ci offriranno la possibilità di metterci nei panni altrui, in un confronto con scelte di vita e punti di vista diversi, che per noi è sempre un grande valore. E poi alla fine ci saluteremo con un buongiorno, un cornetto, un caffè, sicuramente molto stanchi, ma crediamo anche decisamente arricchiti. Però non vogliamo svelarvi altro nel percorso, né anticipazioni su ospiti e attività, poi dopo tutto si tratta di un appuntamento al buio e anche il rischio fa parte del gioco. Però per chi volesse informazioni pratiche su come iscriversi e partecipare, rimandiamo ai nostri canali ufficiali, la pagina Facebook Metro Bologna 2020 e la mail metrobologna2020@gmail.com. A questo punto vi invitiamo e vi aspettiamo sabato 19 settembre e sabato 3 ottobre. Com'è andata alla casa delle artiste slash artisti? Ma è andata bene, secondo me. Io non so se posso dire questa cosa. Ormai, probabilmente no, ma se la dici non succede niente. Probabilmente no. Penso che non si debba cambiare questo nome per una sola settimana. Cioè, è un po' un giocare a ribasso dire lo cambiamo per una sola settimana. Ah, okay. Cioè, anche perché non mi sembra un cambiamento così, così grave dire delle artiste e degli artisti. Sì, infatti. Cioè, se avessimo voluto dire proprio solo delle artiste e basta, allora, posso, qualcuno avrebbe magari avuto qualcosa da dire. Anche se bisogna ricordare che per millenni noi non abbiamo detto assolutamente niente quando si parlava dell'uomo, esatto. E poi c'eravamo dentro anche noi. Perfino Pasolini parlava dell'uomo in termini generali, certo. Includendo automaticamente anche le donne. C'è un suo scritto che magari poi Perché non si fa più adesso? No, adesso non si fa più, adesso assolutamente. Cavoli, sai che l'ho fatto, lo giuro che l'ho scritto tipo la settimana scorsa. Ma no, ti devi aggiornare perché è caduto l'universale maschile. Niente, ti devi dare il tempo di dire sia il maschile che il femminile. Ah, ok, per cui quando parlo dell'essere umano devo dire Umano ancora no, essere umano va bene, essere umano è ancora perché okay. L'essere è un così, però quando parlo dell'uomo che dipinge nella grotta devo dire l'uomo e la donna dipingeva nella grotta. Esatto. Ok. E poi chi è che l'ha detto che i primi dipinti rupestri fossero degli uomini? L'essere umano che dipinge nella grotta, cioè o ti scegli una categoria un po' così transgender oppure o intergender o interrail, non lo so. Interrail, transavanguardia. Transavanguardia, Mario Schifano e compagnia bella. No, però sarebbe interessante pensare che i primi graffiti delle caverne siano fatti da donne. Ma è del tutto possibile. Infatti. D'altronde non è che possiamo, noi non eravamo lì a constatare. Però sì, può essere. Fragile as glass, so little we know when time will pass and what time will show. I can't see a cloud, still I sense the rain. No crooked road has got me as far as this train. quindi io ti faccio pss, pss, e tu ah ma che così sembra che vengo fuori da sotto la sedia, tipo non lo so, come se un Oscar Moroni ti spuntasse di lato e tu dici oh che cozzo è. Well, there is no future, so nothing is to fear. We're pieces in this puzzle, where nothing is common or rare. That won't get me down, cause you won't see a future till you're first in line. That would be just fine, if the end of the circle's the start of the line. Ti parlo di sottovoce e ti chiedo, ma facendo finta che Stefano è di là e non ci sente, ma allora come te la cavi con Stefano? Va bene, dai, partiamo, perché sennò poi dopo se mi dici tutto non mi viene più niente. Ma lo stavamo già facendo, che mi dovevi dire che non si poteva fare perché ne tutti sanno. Ah, te lo dovevo dire perché... Sono riuscita a trovare il modo di boicottarti anche lo sbaglio programmato, cioè la che tu pergola, la boicottazione. Pasquini a distanza, ti manca? Coxo Pasquini. Pedra, che bello riaverti al Coxo. Sì, ma per pochino, un po' in virtuale, un po' così, un po' prima, un po' dopo. Vabbè, adesso del resto poi voglio dire, è tutto un po' così, è tutto un po' virtuale, non si capisce niente di quello che succederà. Ma dimmi tu, in realtà, se va tutto bene, tornerai a Bologna? Tornare a Bologna, dici, eh? No, vabbè, ma diciamo certo. Che in realtà io sono ancora lì, non mi sono mai mossa, cioè la mia presenza, la mia aura... Ti sei solo nascosta, insomma. come fa Oscar Moroni. Come fa Oscar Moroni, però che oggi purtroppo non può essere. Perché non mi si trova. Cioè, invece Moroni si nasconde, ma lo si trova sempre, viene sempre esatto. Fuori, un po' così. Sì, no, poi appare nei momenti più inopportuni, naturalmente. E io invece mi nascondo, me ne vado su per le montagne, e però con il cuore sono sempre lì. E di sicuro appena si sblocca questa situazione lavorativa, perché... per quelli che non lo sanno, io principalmente campo col mondo degli eventi, e finché gli eventi sono così vituperati, non è che ho una continuità d'entrate che mi permetta di pagare un affitto, sai, queste cose qua. Stai diventando, cioè, non sei ancora tornata e stai già diventando troppo autoreferenziale, vedo. Vedi, sono sempre tossica, nell'intimo. Esatto, l'intimo coxico. L'intimo coxico che grande anticipazione, dalla mia salopette si esprimerà e ritornerà nell'etere insieme ai carissimi amici di Peraspera con i quali condurrò il prossimo coxo. Wow, cioè, il 328 è tutto tuo? Ma tu magari un po' tuo, magari un po' Chiara, che dite? Chi lo sa? Io dove posso ci sono, dove e quando posso... Dove coxo ci sono. Esatto. Dove c'è da fare coxate non posso mancare. E allora Super Pask, buona coxata a tutti. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Ciao Cannella. tell the punchline wrong. I know you get me, so I let my walls come down, down. Before you met me, I was alright, but things were kinda heavy. You brought me to life. I finally found you, my missing puzzle piece.